solo la meraviglia che brilla negli occhi tuoi. Ogni nuova parola ti sfida lungo la via. C'è solo la meraviglia che brilla negli occhi tuoi. Se vuoi, cercami ed io ci sarò. Lo sai, sono qui. Certe volte ho paura per quello che incontrerai. So che devi sbagliare e non posso farlo per te. Ma sono qui, lo sai, qui con te. Io ti proteggerò quando è buio. Il cielo scuro.